Il mondo cambia intorno a voi. Una luce vi avvolge e in un batter d'occhio vi ritrovate davanti al guardiano del tempio. Avventurieri, siete stati straordinari. Avete superato anche questa prova. È tempo di consegnare la piuma al guardiano e prepararsi a cercare l'ultima chiave.